Grazie a Dio, ancora oggi, nonostante la crisi delle famiglie, la famiglia resta il primo luogo di trasmissione dei valori e del sapere anche. Quante volte la mamma, il papà, la nonna si fa così, si fa cosà, non si fa così, non si fa cosà. Allo stesso modo, speriamo che avvenga anche oggi, anche se da quello che io conosco è molto di meno, allo stesso modo si insegnavano le preghiere in casa. Il pregare alla sera prima di andare a letto e il pregare al mattino quando ci si alzava era un'abitudine. Perché? Perché si insegnava a consegnare al Signore alla sera tutta la giornata, chiedere perdono degli sbagli, consegnare il bene fatto, e al mattino alzandosi si invocava l'aiuto di Dio. Vi ricordate quella bellissima preghiera? Ma sconosciuta, oggi un ragazzo di 30 anni mi dice: Don, ho scoperto una preghiera bellissima, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ho detto: ah, Andrea, sono contento che l'hai scoperta, è una cosa che c'ha 100 anni, peccato. Ci si alza al mattino per consegnare a Dio la nostra giornata. Questa è una grande sapienza, amici. Purtroppo chi dice le preghiere forse le dice un po' alla sera, ma al mattino in genere le salta. Non voi che avete già la vostra età e ormai questo, ma tanta gente giovane, tanta gente anche di mezza età, non c'è tempo, bisogna correre. Questa è la stoltezza, amici. Bisognerebbe, prima di fare qualsiasi cosa, mettersi davanti al Signore, chiedere l'aiuto di Dio. È quello che ci insegna il Salmo di oggi, il Salmo 118, dai versetti 33 al 40. E io, come al solito, me lo sono gustato. Sottolineando, dovreste vedere i miei libri, sono un campo di battaglia. Sottolineando i verbi. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dal guardare le cose vane. Fammi vivere nella tua vita. Mantieni la tua promessa. Allontana l'insulto che mi sgomenta. Fammi vivere nella tua giustizia. Io ve le ho lette di volata, ma vi auguro, se avete il messalino, di riprenderle e di gustarveli. Sono proprio belli. In più, vi dico una cosa che ho già detto, ma non so se viene ricordata. Il Salmo 118 è il salmo più lungo di tutti i 150 salmi. E in ogni versetto si parla della legge di Dio, usando dei sinonimi. Ve lo rilego sottolineando, questi stanno alla fine. Insegnami, Signore, le vie dei tuoi decreti. Decreti sono le leggi di Dio. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dal guardare, fammi vivere nella tua via con il tuo servo, mantieni la tua promessa, allontana l'insulto che mi sgomenta, perché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi precetti. Non so se sono riuscito anche col tono della voce a evidenziarvi, no? I decreti, la legge di Dio, i tuoi comandi, i tuoi insegnamenti, la tua via, la tua promessa, i tuoi giudizi, la tua giustizia. Cari amici, o noi abbiamo il nostro cammino dentro questi binari, vogliamo riassumerli con un'unica parola? La volontà di Dio. La volontà di Dio. Che il Signore ci guidi, che il Signore ci custodisca, che il Signore distolga i nostri occhi, che pieghi il nostro cuore verso... Ecco, allora dovremmo proprio iniziare le preghiere della giornata affidando la giornata a Dio. Impariamo, amici, a gustare i salmi. E se avete una Bibbia a casa, anche se non avete il messalino, prendetevi il Salmo 118. Qualche versetto tutte le mattine. Si può pregare anche con la Bibbia, amici. Anzi, i verbi che il Signore compie a riguardo della sua legge, dei suoi decreti, dei suoi insegnamenti, dei suoi precetti, cioè della sua volontà. Aiutami, Signore, a scoprire e a vivere ogni giorno la tua volontà.